pianure della Russia, dove insieme ballavamo il casascio. Occhi, occhi castani, che scordare mai più non potrò. Sento ancora le sue mani che battevano su nel casascio. Il ricordo si perde nel tempo, ma qualcosa è rimasto di lui. Vive ancora in fondo ai miei occhi, e scordare io non potrò mai. Occhi, occhi castani, che scordare mai più non potrò. Occhi, occhi castani.